mani c'è un cadavere, sotto i cattivi un angelo ucciso da un'idea. Dicevi che la gente ha ciò che merita, e tu eri mia e noi soli non saremmo morti mai. L'ho nascosto dentro me, così bene in fondo a me, che la vedo la tua luce, sai, ma non riesco a ritrovare il tuo nome. Sai, ma non voglio ritrovare il tuo nome. Un uomo può distinguersi da un'ombra se cerca di essere sempre causa di quel che gli accadrà. E per te volevo diventare un uomo, farti ridere, ma ti ho odiato quando sei andata via. Ti nascondo dentro me per non ritrovarti più. La vedo la tua luce, sai, ma non voglio ricordare il tuo nome. Ma lo sai che è stato meglio così. Ho fatto un incantesimo e tutto un tratto non ci sei più.